24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Esorto il popolo scozzese, che è un popolo di libertà, a votare in massa per il sì. Vota sì, vota per la libertà, Scozia libera! Tag na! Tag gu on sirsa! Alba sirsa! Ma che ha detto Borghezio? Vabbè, Scozia libera lì l'abbiamo capito, ma poi ha parlato... Questo è l'appello in gaelico di Borghezio. No, ecco, io non so adesso se ci sono degli scozzesi che in nome di questo appello di Borghezio voteranno sì all'indipendenza della Scozia. Per la verità non so neanche cosa minchia abbia detto Borghezio, non conoscendo il gaelico, magari ha detto adesso vado a farmi un paio di di rigatoni, non lo so. Anzi, se c'è qualcuno che sa il gaelico, per favore scriveteci al 349-238-6666 per capire esattamente le parole dell'appello di Mario Borghezio. Comunque è il giorno in cui in Scozia si vota l'indipendenza. Voi dite, ma a me che me ne frega, sono le 6:34 minuti, siete lì a occuparvi dei vostri problemi e voi pensate alla Scozia. No, ma è un tema in realtà di attualità, è un tema che sicuramente investe anche tutti noi. Ne parleremo tra l'altro alle 8:15, avremo Roberto Maroni, governatore della Lombardia, poi avremo altri ospiti. Ma alle 6:35 voglio iniziare subito salutando Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, e voglio aprire il Parlamento. C'è gente che dorme qui. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. C'è gente che dorme qui, ve lo dico subito. C'è gente che dorme, nello specifico. Dove sei, Andrea Sarubbi? Dove sei? Mamma mia. Però c'è Maurizio Tortorella, che saluto, vice direttore di Panorama. Ben ritrovato, Maurizio. Eccoci qua. Alessandro, quello c'è sempre. Buongiorno a tutti. Quello c'è sempre. Andrea Sarubbi, invece, ma lui ha un gobbo maledetto e quindi starà pensando degli schemi per Milan-Juve di sabato sera, e quindi lasciamolo dormire, no? Chissà. Lasciamolo dormire. Allora, tu Maurizio, noto esperto di gaelico, che cosa ha detto Borghezio secondo te in questo bell'appello agli scozzesi? Padania libera. No, sto scherzando, non lo so. Può essere. Non lo so. Avrà detto qualche cosa tipo noi siamo con gli scozzesi, è evidente. Dicevi giustamente tu però che la caduta eventuale, anche se leggevo che le cifre percentuali sono abbastanza vicine, sì, ancora non si sa nulla, sì, di chi potrà vincere oggi. È in lieve vantaggio il no, quindi sì, l'unione. Però 2 giorni fa era in lieve vantaggio il sì, quindi chissà, come sempre in questi casi. No, l'eventuale caduta del muro della Scozia, anzi il vallo di Adriano che veramente diventa realtà, sì, potrebbe far cadere il muro di Berlino in Europa, perché ci sono tante regioni che vogliono seguire la stessa strada. Infatti si profilano degli scenari, intanto anche bisogna capire che succede lì in Scozia, però effettivamente per questo abbiamo chiamato anche Roberto Maroni, che è uno leghista, che dice ora, insomma, anche noi, per la verità loro vogliono votare per avere lo statuto speciale, questo non l'ho capito. Non è mica un'idea del tutto peregrina. Ma ho capito, ma si è detto che lo statuto speciale in alcune regioni è fonte di sprechi, è fonte di... E noi vogliamo aggiungerne un'altra di regione a statuto speciale. Beh, però, voglio dire, a parte gli orribili esempi di, soprattutto della Sicilia, che questo ha sguazzato per decenni, obiettivamente, lo statuto speciale può essere obiettivamente in una regione ricca e tendenzialmente virtuosa, a parte le solite belle marce, come la Lombardia, può essere un bel... un bel vantaggio per i suoi abitanti. Un bel vantaggio, e vediamo. Noi, comunque, noi due compresi, non sto facendo un discorso egoistico, obiettivamente, però... Cari siciliani, Maurizio Tortorella vuole comprare una mega sega elettrica e abbandonarvi al largo della Tunisia della Libia. Comunque, non è così, obiettivamente permetterebbe di conservare sul territorio, come si dice sempre con quella banale espressione, parte delle tasse prodotte qui, per esempio. Obiettivamente l'idea dal punto di vista di un governatore leghista mi sembra estremamente presa. Sì, comunque... Il problema è che deve trovare chi in consiglio regionale stia con lui. Gli servono cinque voti in più rispetto alla maggioranza. Allora, però sentiamolo ancora, cari ascoltatori, udite bene, aprite le orecchie, studiate il gaelico in fretta e diteci un po' che ha detto Borghezio. Tagna, tag gu, on sirsa. Alba Sersa! Alba, lo dico anch'io, Alba Sersa! Spero che non sia un insulto... Sembra film Mago Telma che... Non lo so. Alba Sersa! Vabbè, speriamo che non sia nulla di... che nessuno si offenda. Intanto, no Maurizio, questo lo devo dire, perché c'è un ascoltatore. Beh, un ascoltatore, Andrea, da Roma, ci dice che è buona Padania a tutti. Questo l'hai già detto anche te, Maurizio, non so. Vabbè, Tonio dalla provincia di Cremona. Credo proprio che Borghezio abbia convinto gli scozzesi a votare. No. Insomma, questo è il giudizio. Però devo leggere questo messaggio. È già la seconda volta che Remo ci scrive. E ci scrive un messaggio. Grazie della vostra compagnia. Ciao da un cuoco che vi segue da La Digue. Sai tu dov'è la Dig, Maurizio? Le Seychelles, ci sta scrivendo dalle Seychelles, dice buongiorno debosciati, un abbraccione a Remo, cuoco alle Seychelles, anche un po' di invidia, Maurizio. Accidenti. È la più bella delle isole delle Seychelles, se non ricordo male. Capito, noto frequentatore delle Seychelles. No, conoscenze di dépliants turistici. Vabbè. Allora, di che vogliamo parlare? C'è questa questione politica. Renzi e Berlusconi si sono rivisti, hanno parlato per 2 ore, hanno parlato di legge elettorale. Come sai, Maurizio, è in corso la 72esima settimana decisiva per la riforma elettorale, e adesso ho letto sul Sole 24 Ore si accelera sull'Italico. Ma non ti sembra tutto una roba un po', per carità, non si vuole essere distruttivi, ma qualcosa che sta superando un po' il segno anche della decenza? No, al di là di questo, e condivido con te l'impressione, direi che si sta accelerando soprattutto verso le elezioni anticipate, se posso sommessamente dire quel che penso. Cioè, la mia impressione è proprio quella. Anche l'incontro di ieri, le analisi di oggi, gli articoli raccontano che Berlusconi abbia chiesto a Renzi: oh, mi raccomando, non è che non si va a votare. A votare, che quello lo abbia rassicurato. Però, francamente, a me questa accelerazione a quello fa pensare. Ma poi come fai a fidarti in politica? Cioè, in politica l'ultima cosa di cui puoi fare è fidarti di un avversario politico. Mi raccomando, però, non andiamo a votare. Esatto, ma poi anche nel discorso del Presidente del Consiglio l'accenno a potrei andare alle elezioni perché sono forte, ma non ci vado perché l'ultimo dei miei... Cioè, anche queste scusazioni non petite, tutto sommato, fanno pensare obiettivamente a una soluzione del genere. Ora sì, la cosa importante è vedere cosa riescono a combinare sul lavoro, che sarebbe obiettivamente l'emergenza numero uno da trattare in Parlamento. Pare che adesso sia messa effettivamente al primo posto, nel senso che è stato presentato un emendamento anche del governo per questi contratti a tutele crescenti, si vuole superare l'articolo 18, ma certo seguirà dibattitone per mesi e mesi. Ovviamente. Sì, con già minacce di sciopero da parte della CGIL. Ovvio. E quindi, sai, io trovo che immagino che su questo, poi alla fine si deciderà se andare alle elezioni anticipate, se Renzi dovesse capire che nel partito, nel sindacato, in Parlamento gli fanno a moina, a quel punto forse gli converrebbe anche farlo. Comunque, continuano a chiederci: Milan, gli scozzesi non conoscono Borghezio, altrimenti avrebbero sospeso il referendum. Vabbè, ma dai, adesso. Oppure c'è chi dice che ha detto Pape Satana Leppi. Non so. potrebbe essere. Remo, adesso ci stai facendo innervosire. Alla dig c'è il sole, grazie della vostra compagnia. Fermati, perché c'è anche il mare. Adesso dici che ci sono anche belle donne. Insomma, squali. Esatto. Attento che ci sono anche gli squali. Allora, vogliamo sentire un po' di razzeide, diciamo così. Razzi in Corea, che non è una minaccia, razzi in Corea del Nord. Io sono stato due volte a cena con Matteo Salvini e ce l'abbiamo pagata noi la cena. Okay. Non è che è quello che mi ha detto, quello che mi ha raccontato. Ma questo è ristorante è la verità. Ce l'abbiamo pagata noi, ma si sa, Razzi ha vissuto gran parte della sua vita all'estero. E ancora, sentite Razzi che racconta praticamente che la Corea del Nord è una nuova, come dire, non so, la nuova Svizzera, Siamo stati liberissimi di girare, siamo andati anche a mangiare a ristoranti, diciamo, classici. E qui ti ha pagato ai ristoranti? Ha pagato noi. Ah. Ci mancherebbe. Con che moneta? Moneta della Corea del Nord? No, noi abbiamo pagato con euro. Con l'euro in Corea del Nord, questa è straordinaria. Maurizio, ci sono persone che ci sono stati, ci sono partiti, è impossibile, che vogliono uscire dall'euro e invece la Corea del Nord entra nell'euro. Questa credo sia impossibile pagare con gli euro nella Corea del Nord. No, ma ti sembra normale? Ristoranti, cos'è che ha detto? Tipici. Ma adesso si può ironizzare su tutto, ma vabbè, hanno pagato in euro. 24 mattino. Quel bavolfo di Renzi crede di giocare ancora alla ruota della fortuna. Sta prendendo in giro noi italiani. Volevo chiedere, ma questi 1000 giorni, quando è che inizia il conto alla rovescia? Non iniziano mai? Dovremmo essere al 990, eccetera. Da quando vi ascolto, devo dire che mi avete migliorato l'ottimismo, soprattutto perché ho 4 radio sintonizzate su Radio 24 e una sola televisione. Spesso e volentieri spegniamo la televisione per vedervi per radio. Complimenti. Visto che c'è l'apartheid, ci sono dei lavoratori che lavorano alla stregua di schiavi e dei lavoratori normali, protetti come devono essere in democrazie, in mondi civili. Non bisogna far diventare i lavoratori normali lavoratori sotto schiavitù, ma bisogna casomai innalzare i lavoratori che non hanno alcun diritto alla normalità. Parlano di voler abolire l'articolo 18 e i diritti acquisiti dei lavoratori per far ripartire l'industria e l'economia, però dopo, come al solito, vogliono mantenere i diritti acquisiti di magistrati, giudici, funzionari pubblici, amministratori pubblici, politici e dipendenti statali. Non se ne parla proprio. Lo sa come li chiamiamo le persone come Renzi in Sardegna? Vuoto a perdere. Sono Giuseppe Garibaldi dalla Maddalena. Vi ho fatto un bello scherzetto 153 anni fa, italiani, eh? Hai capito, Tortorella? Pure Garibaldi abbiamo riesumato. Le isole oggi vanno un sacco. Sì, dalla dig alla Maddalena. No, devo dire che c'è un pochino sulla questione del lavoro. Vogliamo tornare, anche perché oggi Panorama, la copertina è dedicata a questo. Però c'è un po', secondo me, nessuno si offenda di qualunquismo. Io capisco la signora che dice il mondo dell'utopia è quello in cui eleviamo i diritti a tutti coloro che non ne hanno, precari, gente che non trova lavoro, i giovani che si disperano, e manteniamo anche tutti tutti i diritti a tutti quelli che sono già nel mercato del lavoro. Maurizio, chi trovasse questa formula vincerebbe il premio Nobel per l'economia, esatto, per il lavoro, per la scienza. Cioè, non lo so, voglio dire, forse... Nella nostra Costituzione c'è scritto che c'è il diritto al lavoro, però non, questo non... Ma non al posto di lavoro. Non al posto di lavoro, è una bella differenza, il diritto a creare le condizioni perché ci siano opportunità di lavoro, che magari condizioni vuol dire abbattere la burocrazia, in modo che le imprese possano anche dare posti di lavoro. Però ho detto troppo, sono andato un po' troppo oltre. Vai Maurizio, che dici? No, la mia impressione è che la proposta di Chino, che è quella che tendenzialmente sta passando, almeno nelle proposte del governo, cioè quella di fare sì che i nuovi contratti di lavoro, quindi i nuovi assunti da quando passerà eventualmente la legge in poi, abbiano non il diritto automatico al reintegro in caso di licenziamento, ma una serie di tutele crescenti a seconda dell'età e del numero di anni che hanno, che hanno lavorato. Mi sembra più logica. No, ma poi io voglio dire, la questione delle tutele per tutti è che se, mi rivolgo sempre a quella signora, se un'impresa non può licenziare uno che fa niente dalla mattina alla sera, se l'impresa Stato non può licenziare un dipendente pubblico, ci sarà, che non fa niente dalla mattina alla sera, non credete che questo sia, come dire, ma sia un macigno, perché se un'impresa non può fare questo, magari vorrebbe assumere un giovane volenteroso, bravo, ma si trova un rompiballe che ruba il posto di lavoro e però è intoccabile. Questo è il senso delle tutele, troppe tutele, non che si vuole mettere alla fame le persone oneste che lavorano. E non è così da nessuna parte del mondo, soprattutto. Non esiste. Comunque, su Panorama, che fate? Raccontate tutti i lavori che avranno un futuro e quelli che spariranno. Beh, ambiziosa, come è uno studio fatto esclusivamente per noi da Roland Berger, che è una delle più importanti società di consulenza al mondo, e ha valutato 600, anzi sono più di 600, 600 e passa tipi di lavoro. E ti dico, c'è anche il giornalista, questo se ne parliamo che sparirà sicuramente. No, invece, ci sarà sempre bisogno di qualcuno che racconta. Vabbè, questo sì, questo è... Ma no, e in un valore da 1, da 0 a 100 si stabilisce, si definisce cosa accadrà a quel lavoro e quale sarà il rischio che possa essere appunto superato da qui a 10 anni. Ah beh, interessante. È molto interessante perché le fattispecie sono tantissime, si va, voglio dire, dal responsabile di gestione delle emergenze al barbiere, al centralinista, allo scrittore autore, ci sono veramente pagine e pagine di titoli di lavoro con la relativa quote percentuali. Interessante, di questo di ovviamente su Panorama. Intanto un ascoltatore che mi dice che Alba è il vecchio nome in gaelico appunto della Scozia, quindi ci avviciniamo, ci avviciniamo. Alba, cos'è che ha detto? Me lo fai risentire, Borghezio? Che ha detto Alba Sars, Alba Saor? No, le Sarden Saor, che ha detto? Tagna! Tag gu on sirsa, Alba Sersa! Alba Sersa, non Alba Saor, Alba Sersa. Alzati, Sersa sarà alzati. Alzati, alzati, Scozia! Alzati, Scozia! Sursum, sai che va. Vabbè, sì, no, esatto. Regali con i cittadini. Va bene, ma io voglio concludere facendovi sentire la voce di una sportiva nota, molto amata. Si tratta di Federica Pellegrini, perché da giorni io mi inquieto su questa cosa di Alex Schwarzer, hai letto, no, Tortorella? Sì, con sì, Carolina Costner, che se lo trovava nel letto con una macchina, la mascherona, eppure, come dire, niente, vabbè, è normale, tutti ci addormentiamo con una mascherona e non chiediamo conto al nostro partner. Sentite Federica Pellegrini cosa dice. Io non potrei stare insieme a una persona che so che si dopa, quello è il problema. Diciamo, in un'ipotesi che fosse successo a Filippo, tu cosa avresti fatto? Avresti denunciato e l'avresti mollato? Non lo so, però sicuramente l'avrei mollato. Grazie, molti mesi prima. L'avrei mollato. Ora non è che, cioè, adesso non è un attacco, come scrivono oggi i giornali, a Caroline Costa, anche perché chissà, magari davvero non sapeva, era distratta, era, però Maurizio, nel salutarti mi inquieta molto questa vicenda, no? Non lo so, ho dei dubbi. Beh, adesso è così, per questo motivo anche la cosa è finita indagata, lo abbiamo letto tutti. Ma da questo, voglio dire, la stessa Pellegrini risponde non lo so, la prima battuta è non lo so, e poi dice aggiunge l'avrei lasciato molto prima. Sì, forse è un riferimento alla Costa, evidente. La domanda d'altronde partiva da lì, dal caso Schwarz. Sì, non l'ha nominata, però ha detto, diciamo, fosse capitasse a me di avere e mi accorgo, evidentemente non se ne sarà accorta. Che devi fare? Era distrattore, Carolina Costa. È distrattore. Sono pesante. Può capitare. Come Sarubbi, come Andrea Sarubbi, dove sei? Per questa tua non sveglia, la Juve perderà. Sabato, sì, magari. Maurizio, ti ringrazio, alla prossima. Buona giornata a tutti, ciao, grazie. Luciano da Torino, buongiorno Luciano. Buongiorno Cruciani. Sono Milan, però va bene, ma Cruciani glielo saluto. Dica. Milan, sì, Milan. È uguale, Milan, okay, Cruciani, okay. Uguale. Due deficienti. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, 7:19 minuti, cari amici debosciati di tutta Italia. Siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo che oggi parleremo di quello che può succedere dalla Scozia all'Europa, all'Italia per l'appunto, perché sapete che c'è il referendum, urne aperte dalle 7, quindi le 8 ora italiana, fino alle 22 per decidere da parte degli scozzesi se rimanere attaccati a Londra nella Gran Bretagna oppure votare per l'indipendenza. Avremo Roberto Maroni, governatore della Lombardia, leghista, che partirà da alcune riflessioni, immagino, nelle nostre domande su quello che succede in Scozia, per capire se avrà riflessi anche in Italia. Parleremo poi con un giornalista inglese, Nicholas Farrell, che scrive per il giornale, una penna urticante. Insomma, state con noi, cercheremo di spiegarvi che succede se dovesse succedere il cataclisma per Londra. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani. Questo giovedì 18 settembre siamo con i due titoli principali, o meglio i due argomenti che trovate in prima pagina sono il lavoro, il Jobs Act e la consulta, o meglio il fatto che il Parlamento riesca a votare due giudici mancanti della Corte Costituzionale. Per il Sole 24 Ore, Jobs Act per i neoassunti, contratto a tutele crescenti, questo è il titolo di prima pagina. Mentre La Stampa mette in prima pagina lavoro, ecco il nuovo contratto. Per Il Giorno, un calcio all'articolo 18, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Corriere della Sera, lo stallo in Parlamento, i veti bloccano le Camere, questo è il titolo principale. Mentre Il Messaggero, caos consulta, l'ira del Colle. E anche Repubblica, caos consulta, l'ira di Napolitano. I sindacati, sciopero sul decreto lavoro. Come vedete Repubblica mette proprio i due temi del giorno nello stesso titolo di prima pagina. Per Il Giornale, patto salva Italia, vertice Berlusconi-Renzi. Mentre Il Fatto Quotidiano, il Parlamento ignora Re Giorgio e Renzi fa il patto di governo con Berlusconi. Libero invece si concentra sul titolo ridateci i vitalizi truccati, e la vicenda del Trentino da cui non partiamo ma che vedremo tra poco. Prima appunto due articoli vi segnalo sulla questione Scozia che poi approfondiremo alle 8:15. C'è Leonardo Maisano sul Sole 24 Ore che racconta da Edimburgo il fiato sospeso in Europa. Visto che oggi 4.300.000 cittadini residenti in Scozia, più o meno 4.300.000, potranno votare al referendum sull'indipendenza. E tra l'altro lo stesso Leonardo Maisano racconta come sia pronto il piano salva sterlina della Banca d'Inghilterra in caso ovviamente di sì di vittoria dei sì. I bookmakers in realtà danno in lieve vantaggio i no, ma siamo attorno al 51-49, quindi qualche giorno fa addirittura erano andati in vantaggio i sì. Per la prima volta avrebbero superato i no. Lo scenario, e vi segnalo anche Repubblica, Andrea Bonanni, Bruxelles teme il contagio scozzese. I governi blindano l'ingresso nell'Unione Europea. Ecco cosa potrebbe succedere, visto che l'Europa, scrive Andrea Bonanni, teme il contagio scozzese. Soprattutto, per la verità, lo temono i governi dei grandi stati nazionali, che potrebbero perdere pezzi importanti del proprio territorio se autonomisti e secessionisti ricevessero una legittimazione dal voto della Scozia. Tra tutti, la Spagna sicuramente è la più preoccupata. Il 9 novembre i catalani sono chiamati a un referendum per decidere la secessione, che però il governo di Madrid, a differenza di Londra, considera incostituzionale e illegale. Dietro la Catalogna ci sono i Paesi Baschi, dove le aspirazioni indipendentiste si sono a lungo macchiate anche del sangue sparso dall'ETA. E poi ci sono anche però altri paesi. Cipro Nord, sotto controllo turco, le cui aspirazioni all'adesione sono da sempre bloccate dal veto della Grecia e di Nicosia. Poi ovviamente si parla anche dell'Italia. Comunque c'è un elenco e una pagina intera con tutte le spinte indipendentiste in Europa, paese per paese, non solo l'Italia, in Germania, in Francia, in Repubblica Ceca, in Finlandia, in Polonia. Insomma, la mappa è molto molto diffusa. Come detto, Libero apre sulla questione dei vitalizi. Sapete che ieri abbiamo raccontato attraverso il Messaggero che in Trentino hanno detto: abbiamo dato dei vitalizi agli ex consiglieri, ci siamo sbagliati, dovete restituirci le cifre che vi abbiamo dato. In alcuni casi ammontano fino a 400.000 euro. Oggi Maurizio Belpietro, direttore di Libero, fa questa campagna. Il governo lo faccia con tutte le regioni e imponga la restituzione di tutti i vitalizi ai consiglieri regionali. Il governo, insomma, estenda l'esempio del Trentino in tutta Italia. Devono pagare i furbi, la casta restituisca i vitalizi. Questo scrive Libero. Il Trentino ha chiesto a 127 ex consiglieri di rendere gli assegni d'oro che si erano autoattribuiti, un esempio da seguire invece di battere cassa solo con gli italiani. Certo, fa molto specie vedere di fronte a questo appello di Libero ciò che scrive anche oggi Diodato Pirone sul Messaggero: tenete le mani strette bene sul volante, per favore. Tenetele bene, perché in Lazio, dove hanno cambiato le norme per i vitalizi, ma le hanno cambiate per il futuro, perché i diritti acquisiti. Vabbè, ci sono gli ultimi tre consiglieri che avranno il baby vitalizio a 50 anni. Si tratta, racconta il Messaggero, di Nicola Illuzzi, consigliere dal 2010 al 2013, Roberto Buonasorte, eletto anche lui per 3 anni, e poi Marco Di Stefano, che ha compiuto i 50 anni lo scorso 12 maggio, pur non avendone diritto, non può ricevere al momento la pensione, il vitalizio, perché nel frattempo è deputato. Ai tre si aggiungono, nel club dei neo cinquantenni super fortunati, l'ex assessore Giulio Gargano, che per ora però ha perso il vitalizio per una condanna giudiziaria, e Gianfranco Gatti, ex sindaco del Reatino, che già riscuote la sua brava pensioncina dal 1° di giugno. A 50 anni, come i baby pensionati. Ricordate, sull'onda di questo tema il giornale racconta quanto è la cifra del Piemonte. Vivete in Piemonte? Ve lo diciamo quant'è la cifra spesa dalla regione Piemonte per pagare i vitalizi. Per carità, anche qua diritti acquisiti intoccabili: 732.000 euro al mese, vitalizi d'oro, racconta Gian Maria De Francesco. E c'è la classifica, chi è in testa? Ugo Cavallera, ex consigliere regionale, 24 anni in regione, 7.958 euro mensili. Al secondo posto Giuliano Manica, PD, ex assessore, 7.560. No, ragazzi, qua vi fate venire la bile. Vabbè, comunque la classifica è pubblicata sul giornale, come sono pagati gli ex consiglieri della regione Piemonte, lo trovate lì. Classifica per classifica. Ma il premio mani sul volante per l'articolo che ci fa pensare della giornata. Lo vince Emanuele Lauria, che ci racconta l'assoluta stortura di quello che sta per succedere in due comuni in provincia di Siracusa, vale a dire Pachino e Rosolini, dove il giudice ha sentenziato: bisogna rifare le elezioni di 2 anni fa, le comunali. E vabbè, fin qui può succedere, ma bisogna farle esattamente come erano fatte allora. Non bisogna cambiare nulla. Bisogna mettere le schede come allora, i partiti di allora. C'è il Popolo della Libertà che nel frattempo è sparito, non importa, bisogna metterlo in lista. E poi si chiede Lauria: e che facciamo con i morti? Chiamiamo al voto anche loro. Poi certo, mica possiamo resuscitarli. Ebbene sì, perché bisogna usare gli elettori di 2 anni fa. E se qualcuno nel frattempo è morto? Non importa. Fa parte del corpo elettorale, perché le elezioni devono essere ripetute esattamente come erano 2 anni fa. Uno è morto di elettore? Pazienza. Gente che ha cambiato partito? Pazienza. Deve essere messa nel partito di 2 anni fa. Gente che nel frattempo ha compiuto di 18 anni e potrebbe votare, non vota, perché 2 anni fa ne aveva 16 e quindi non poteva votare. Bisogna riprodurre esattamente quella situazione. Eccolo qui, elezioni in replay, la farsa di Siracusa coi partiti estinti. Un giudice riconvoca 9.000 elettori, compresi quelli morti. Succede in provincia di Siracusa, in Italia, nel 2014. Io ogni giorno prendo la mazzetta. Hai solo un difetto: se ti chiamavi Alessandro Juve eri perfetto. Sì, certo. Andavo, emigravo subito alle Seychelles. Vabbè, oggi dico le Seychelles perché c'è il nostro ascoltatore Remo che ci scrive da lì. Fa il cuoco e ci fa sapere, e fa sapere a tutti voi, che alla Digue c'è il sole, cari italiani. Le Seychelles. Va bene, allora, il tema che torna prepotentemente alla ribalta sui giornali è la questione del lavoro. Come racconta nei dettagli Giorgio Pogliotti a pagina 3 del Sole 24 Ore, si è trovata un'intesa sul contratto a tutele crescenti. Questo è il senso di un emendamento del governo alla riforma del lavoro, già presentato con primo firmatario, credo, Sacconi, alla Camera. Racconta Pogliotti: per favorire l'occupazione stabile alle nuove assunzioni si applicherà un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Per le prestazioni discontinue e occasionali in tutti i settori produttivi si guarda ai mini jobs tedeschi attraverso l'incremento dei limiti di reddito e l'impiego dei voucher, insieme a più flessibilità nelle mansioni e al superamento del divieto delle tecnologie di controllo a distanza mediante la revisione di discipline contenute nello statuto dei lavoratori ferme agli anni 70. Vogliamo un mercato del lavoro più equo, dove tutti abbiano il giusto grado di opportunità e tutele, così ha commentato il ministro del lavoro Poletti. Certo, racconta il Sole che l'emendamento presenta margini di ambiguità, visto che l'interpretazione di una parte del PD, cioè sospensione temporanea dell'articolo 18, non coincide con quella dell'area centrista della maggioranza, che vuole la cancellazione dell'articolo 18. Certo, la posizione di Renzi sul punto è nota. Il premier punta a sostituire, in caso di licenziamento, la reintegra con il pagamento di un indennizzo. Molti giornali, come il Quotidiano Nazionale, il più esplicito, titola: è il calcio definitivo all'articolo 18. Su questo però si misureranno i numeri in Parlamento. Il governo, scrive La Stampa, fa i conti. È caccia aperta ai voti per non affondare. Carlo Bertini racconta, pagina 3, come la prima resa dei conti ci sarà già stamattina alle 8, quando si riunirà il gruppo del PD al Senato. Secondo alcuni ci sono una 30 su 100 senatori, mentre secondo i renziani sono al massimo una 15, che possono far cadere il governo in aula su questo tema. Ci devono dire se, pur marcando una posizione contraria, sono pronti a votare la fiducia al governo oppure neanche questa. Questa è la linea all'interno del governo Renzi, perché ormai tutti sono rassegnati. Renzi userà il decreto legge sulla questione del lavoro, non può aspettare i tempi lunghi. E qui Carlo Bertini raccoglie già due idee contrapposte. Bersani, per esempio, che dice: per come è scritto questo emendamento, per me è votabilissimo, lascia tutto aperto, mentre Stefano Fassina dice: così non è votabile. Quindi diciamo l'opposizione a Renzi nel PD su questo tema è divisa al suo interno. E sta di fatto che Renzi conta i numeri, mentre attenzione, perché il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli racconta a pagina 6, un'intera pagina, di una cena nella quale D'Alema avrebbe raccolto la minoranza del PD. È successo lunedì sera, metti un lunedì sera a cena con Massimo D'Alema. In questa cena c'erano la minoranza del PD con l'obiettivo di arginare Matteo Renzi, questo almeno è il retroscena raccontato dal Corriere della Sera. D'Alema avrebbe anche detto: Renzi mi aveva detto determinate cose sia sulla composizione del governo che sulla nomina europea dell'alto rappresentante, poi non ha tenuto fede alla parola data. Prima o poi qualcuno dovrà raccontare le bugie che dice quello lì. Così D'Alema si sarebbe riferito a Matteo Renzi. È proprio vero allora che è, come dire, abbastanza attapirato per la mancata nomina all'alto rappresentante, è caduta poi la scelta su Federica Mogherini. Sta di fatto che sul lavoro interviene anche Sergio Cofferati, intervistato da Repubblica, colui che oggi fa l'europarlamentare ma è stato a capo della CGIL. E fece anche 2 milioni di persone in piazza a difesa dell'articolo 18, se ricordate. Addio al diritto, diritto al reintegro non è previsto neppure in caso di discriminazione. Dice Cofferati: il reintegro sul lavoro ormai non c'è più, non è previsto in nessun caso. Il guaio è che di questa sparizione non tutti sembrano essersene accorti. È stato fatto fuori nel silenzio. Basta leggere con attenzione il punto dove l'emendamento introduce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. E dice Cofferati: diciamo che Sacconi ha letto almeno il testo meglio del ministro Poletti. Quindi Cofferati parla poi di norma del governo che lede la dignità della persona. Come vedete, sul tema lavoro c'è tanta opposizione anche interna a Renzi. Renzi che ieri ha incontrato Berlusconi. Il nuovo patto tra Renzi e Berlusconi sull'Italicum, un incontro di 2 ore, un incontro nel quale i due hanno deciso di accelerare sulla riforma elettorale, siamo nella 72esima settimana, lo sapete, e pare che Berlusconi abbia detto: ti aiutiamo anche sul lavoro, e Renzi ha respinto al mittente la proposta, come racconta Repubblica, come dire, su quello non ci sarà bisogno. E ovviamente su questo nuovo patto del Nazareno tra Berlusconi e Renzi ci sono i critici, i commentatori. C'è un editoriale lungo di Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio. Il titolo è "Abbracciati in segreto", racconta Ferrara. Si incontrarono giusto ieri e si abbracciarono in segreto, come fanno gli amanti nelle loro lacrime e deliri. Renzi e Berlusconi vivono la loro storia d'amore scritta nel patto del Nazareno ormai da molti mesi. E scrive Ferrara: non è che c'è il patto del Nazareno e parallelo il governo Renzi. C'è il governo Renzi e c'è il Renzi reale, felicemente all'opera, perché c'è stato il patto del Nazareno. Renzi sloggia il nulla incartato di serietà della presidenza del Consiglio perché ha un patto con Berlusconi, negoziato in segreto ma alla luce del sole. E può proporsi nella legislatura in cui i nulla volevano farsi una squadretta lenta e mendace, come colui il quale ha i voti per cambiare le grandi istituzioni della Repubblica. Dunque, non è che dura o non dura il patto del Nazareno. Dura o non dura, insieme con il patto, simul stabunt, simul cadent, il fenomeno Renzi. Questa è l'analisi di Ferrara, cioè il governo Renzi dura perché esiste, perché c'è il patto del Nazareno, e dura finché dura il patto del Nazareno. Ancora scrive Ferrara: ve lo immaginate voi un governo Renzi che ora svolta e fa maggioranza con Gribbels, lui chiama così Grillo, o con Vendola, o con Civati, o con Fassina, e riconsegna la chiave della politica italiana ai vecchi barbogi e ai giovani di scuola classista e manettara, ai sindacati, alle burocrazie sfidate, ai capitalisti dei miei stivali? Un Renzi senza e magari contro il Nazareno? Ecco, per Ferrara non è più possibile, e Renzi c'è perché c'è questo patto. Conclude poi l'editoriale a dire: sì, rassegnino gli scalfari e gli altri. Si rassegna anche Mauro Meazza. Mauro, buongiorno, rassegnati. No, sono rassegnato, ma nel senso che tu scrivi sempre su Twitter, certo, cioè della certo. Rassegna stampa. Esatto. Ma anche noi esistiamo in quanto abbiamo fatto un patto, vabbè, no. Non lo so, abbiamo fatto il patto del bar. Sì, abbiamo fatto il patto del bar, infatti, beh, vabbè, diciamo, ognuno fa i patti che può. Diciamo. La crostata, noi il patto del caffè, che dobbiamo fare? Noi ci siamo limitati a quello. Senti, guarda che parliamo di cose più... come dire, tangibili in qualche sì. modo, anche se sono, no, se sono digitali, perché oggi sul Sole 24 Ore trovi la guida al decreto legge sulla giustizia, che contiene parecchie innovazioni importanti, con nuove mansioni, nuove indicazioni specialmente per gli avvocati e nelle composizioni delle liti o per evitare le liti. E poi sul sito, ma per gli abbonati digitali, quelli che leggono il nostro giornale via computer, via tablet, eccetera, bene, c'è anche subito disponibile il decreto legge commentato articolo per articolo, di modo che uno riesca anche a comprendere l'esatta portata della cosa. Questo te lo volevo dire. Poi naturalmente torniamo sulle successioni. So che tu ieri sei rimasto abbastanza colpito da questo problema, ma guarda, è una tassa che non ci riguarderà, Alessandro, nel senso che No, è che qualcun altro si preoccuperà per quello che ci riguarda, in quel senso lì. No, insomma, facciamo non dico due conti, perché è un po' presto, parliamo ancora di un progetto, bisogna vedere. Ti informo comunque che ci scrive Dino Pesoli oggi che mancano 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi e mezzo, quindi io te l'ho detto di spendere questi 2 euro prima che te li chiedano, vedi tu. Ecco, tra questi 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi e mezzo che mancano, qualcosa potrebbe venire anche dal ritocco dell'imposta di successione. Segnalato ieri sul Sole, oggi di nuovo ci torniamo. Guarda, arriverà anche un disegno di legge sulla concorrenza. Ti ricordi la storia delle scatole nere, RCA, dove certo, doveva entrare nel decreto? Non è mai arrivato. Ecco, adesso invece faranno un disegno di legge, quel disegno di legge, quindi ci vuole un po' di tempo. Sì. Andiamo piano, adagio, biagio, come diceva una vecchia canzone. Arriverà un disegno di legge sulla concorrenza. Carmine Fotina oggi sul Sole racconta un po' tutti i possibili contenuti di questo decreto, disegno di legge, era un auspicio il mio, che sta prendendo forma. Alessandro Milan, le mani sul volante dell'informazione. Allora, è interessante l'intervista che Repubblica fa a Bernardo Caprotti, patron dell'Esselunga. Intanto interessante perché è un imprenditore che parla veramente con il contagocce. Franco Vanni lo intercetta al Rotary Club di Milano, dove si presenta con una busta dell'Esselunga sulle ginocchia, dicendo: è la mia 24 ore in plastica rinforzata, metto dentro tutto quello che c'è, e parla. Bernardo Caprotti non si risparmia, qualche critica alla politica, dice per esempio: il premier stia attento, lunedì inaugura una scuola, martedì una fiera, mercoledì fa un annuncio, ma stia attento perché la settimana è corta e nei giorni che restano è difficile risollevare un paese al disastro. Per ora ho visto poco. Renzi però è intelligente ed è stato un buon sindaco, non deve fare l'errore di Berlusconi, uomo leale e generoso che si è illuso di poter cambiare il paese solo con la propria forza di volontà e a livello di intenzioni. Comunque mi piace quello che Renzi sta cercando di fare sul lavoro. Caprotti dice: l'articolo 18 è una piccola parte del problema, ne faccia ciò che vuole, ma l'importante è scardinare la morsa di burocrazia, divieti, resistenze sindacali che strangola le imprese. Poi parla della questione giudiziaria con i figli. Si dovrà esprimere la Cassazione sulla contesa per la proprietà di Esselunga che oppone Caprotti ai figli, e alla domanda che rapporto ha con loro, il patron di Esselunga dice: non ho rapporti e non mi illudo di recuperarli a brevi. La mia famiglia oggi sono le persone con cui lavoro da una vita, e soprattutto c'è mia moglie al mio fianco in ogni battaglia, compresa quella sugli aeroporti, che è una nuova battaglia che vuol fare. Tra l'altro conclude l'intervista Bernardo Caprotti: posso chiederle una cosa? Lui al giornalista di Repubblica Franco Vanni: prego, facciamo un selfie insieme? E vabbè, eccolo qua, 89 anni, grande Bernardo Caprotti. Allora, su questo invece che dire, devo anche oggi spendere parole sullo stallo alla Corte Costituzionale, perché al Parlamento non decidono di firmare, non c'è nessun accordo, non decidono di votare i due scelti dai partiti, che sono Violante a sinistra e Bruno a destra. C'è l'intervento di Giorgio Napolitano, l'ira di Napolitano, che giudica lo stallo grave. Racconta Marzio Breda sul Corriere della Sera, pagina 3, più che un avvertimento è una messa in mora dei partiti su un doppio fronte, perché denuncia la loro inadempienza costituzionale, e poi perché questo episodio è ritenuto grave e si lega a questo un motivo politico di vero allarme, cioè lo spirito partigiano e le settarie preclusioni dimostrate dal trascinarsi di inutili tentativi per eleggere due giudici e altrettanti componenti laici del CSM. Cose già accadute in passato, scrive Marzio Breda, ricordate l'insediamento di Napolitano che diceva al Parlamento: beh, non siete stati capaci di esprimere un presidente, e quelli: bravo, ma voi sono qui perché non siete stati in grado di accordarvi su nulla, bravo. E incredibilmente fu una delle scene più incredibili per me degli ultimi anni di cortocircuito della politica, ancora una volta l'ennesimo appello di un Giorgio Napolitano irato nei confronti dello stallo del Parlamento. È irato anche Pizzarotti, il sindaco di Parma. Sapete che c'è qualche tensione nel Movimento 5 Stelle, anche lui rilascia poche interviste, noi l'abbiamo invitato varie volte ma non vuole parlare, e con noi almeno. Parla con il Corriere della Sera Emanuele Buzzi, racconta: Pizzarotti, il listone unico poteva essere un progetto pilota. Sarà importante l'appuntamento di ottobre al Circo Massimo, dice il sindaco di Parma. Bisogna parlarsi e chiarirsi di persona all'interno del Movimento 5 Stelle. Il virtuale non basta, toglie empatia e comunicazione. E alla domanda di Emanuele Buzzi su un conflitto presunto con Grillo, dice: è sempre sbagliato mettersi contro una persona, ma casomai contro idee e concetti. È necessario un confronto su cose e decisioni e norme che hanno suscitato malessere. E insomma, un Pizzarotti che tra l'altro annuncia: la mia decisione è annunciata e definitiva, non mi ricandiderò a sindaco di Parma. L'ho già scritto su Facebook e lo confermo qui. Certo, un Pizzarotti dunque che parla di qualche antagonismo inutile, ma no ai dogmi e più confronto nel Movimento 5 Stelle. Oh, poi c'è tutta la vicenda dell'Expo, è indagato ora per presunti favori in cambio di illeciti all'azienda Maltauro il subcommissario Acerbo. Vi parleremo anche di questo con Roberto Maroni. Ma per quel che riguarda la cronaca, voglio segnalare velocemente due cose. La prima è questa: nella vicenda Schwarzer-Kostner ora pesano le parole di Federica Pellegrini, campionessa di nuoto, che dice a un uomo dopato direi addio, per carità. Poi su Twitter ha precisato: non mi riferivo a... Però la domanda è chiaro che era nata sul fatto: ma come Caroline Costner può non essersi accorta che il compagno Schwarzer, che dormiva con una camera, con un tubo, con un macchinario attaccato, avesse dei problemi? Federica Pellegrini chiaramente dice a un uomo dopato direi addio, se fosse successo al mio compagno Filippo Magnini avrei usato tolleranza zero, e quindi si inserisce anche il dibattito e le polemiche tra campionesse, tra Federica Pellegrini e Caroline Costner. Vi segnalo anche Libero racconta che a Davide Bifolco, il ragazzo ucciso da un carabiniere, si capirà se per tragica fatalità o meno, nel rione Traiano è stata edificata una cappella da parte degli amici, una cappella dove ci sono i fiori, dove vengono deposti, tutto abusivo. A Bifolco hanno fatto il mausoleo abusivo e la magistratura dice abbattetela. Ecco, abbastanza emblematica. Ma voglio chiudere con il premio La Carta Costa, che oggi va a Romana Liuzzo del Giornale, che racconta in un'intera pagina intera quando sboccia l'amore nel Parlamento dell'Odio, la storia delle tante coppie di parlamentari, il gioco delle coppie da Franceschini alla consigliera comunale di Roma, da Laura Ravetto al Democrat Ginefra, da Mara Carfagna al deputato Ruben, insomma gli amori alla Camera. Vabbè, dai. Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8 e 20 minuti e ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi è un giorno comunque vada a finire storico, lo sapete, per la Scozia, ma non solo per la Scozia, anche per l'Europa, perché 4 milioni e 300 mila residenti oggi in Scozia risponderanno al referendum alla domanda: la Scozia dovrebbe essere un paese indipendente? Tutto questo, se dovessero vincere, sì, arriverà poi nel 2016, ma i bookmakers dicono che siamo lì lì. Forse sono in vantaggio i no di poco, al 51%. Colpisce però l'entusiasmo che si vede da anche varie parti d'Europa. Per esempio, mi ha colpito due giorni fa vedere un tweet con tanto di bandiera scozzese e l'invito Go Scotland, che è stato postato dal governatore della Lombardia Roberto Maroni della Lega. Governatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma lei perché tifa per l'indipendenza della Scozia? Ma tifo per un processo di autodeterminazione. Non possono decidere sempre solo le banche, i banchieri, qualche volta anche il popolo a cui appartiene la sovranità deve essere chiamato a dire la sua, soprattutto in un'Europa che non è il vuoto assoluto, ma è fatta di stati, ma è fatta anche di regioni, quindi il contenitore c'è. All'interno di questo contenitore, che una regione appartenendo all'Unione Europea sia più o meno legata allo stato di origine, conta poco. Visto che addirittura l'ex premier Letta, Enrico Letta, l'ha paragonata a quello sparo di Sarajevo, che potrebbe dare il via con una vittoria del sì a una sorta di nuova guerra mondiale, comunque di disgregazione di tutto quello per cui abbiamo lavorato, l'unità europea. Ma perché disgregazione? Io penso invece a una riaggregazione, quella che noi chiamiamo l'Europa delle regioni o l'Europa dei popoli. Scusi, ma oggi lo Stato italiano che cosa controlla? Non controlla più i confini, non controlla la moneta, non controlla la politica estera. Con il Fiscal Compact il Parlamento italiano non farà più neppure la legge di bilancio, quindi non controlla i conti, è tutto concentrato a Bruxelles. Al di sotto di questo livello, che ci siano regioni più o meno autonome, non è una disgregazione dell'Europa, anzi è un rafforzamento, io lo vedo così. Ma lei spera che la Scozia vinca in funzione lombarda, in funzione veneta, cioè la battaglia della Lega dopo la Scozia, noi nel senso Lombardia, Veneto? Beh, dopo la Scozia ci sarà la Catalogna a fare il referendum a novembre. Però lì il governo di Madrid sa che lo considera incostituzionale. Sì, come il governo Renzi, che ha dichiarato incostituzionale una legge del Veneto che chiede un referendum consultivo, neanche costitutivo. E i governi nazionali hanno paura di questo procedimento, di questo processo, non perché sia disgregativo, ma perché fa venir meno il loro potere. Ma questo è un altro discorso. Io mi auguro che se vince il referendum in Scozia, ma anche se non vince, si dia ascolto davvero alle esigenze che vengono dai territori. Per esempio, lei vuole un referendum per introdurre lo statuto speciale in Lombardia, ma non è quello statuto speciale che ci ha prodotto così tanti danni, immagino, alla Sicilia e altre regioni. Si associa spesso agli sprechi lo statuto speciale. No, non è così, non è così. La Sicilia non ha adottato, non ha applicato lo statuto speciale. A me basterebbe un articolo solo dello statuto della Sicilia, quello che dice che in Sicilia rimane il 100% delle tasse pagate dai siciliani. La Sicilia ha rinunciato all'autonomia in cambio dell'assistenza romana. E noi, per noi sarebbe veramente il contrario. Se avessi quello statuto, se avessi quella possibilità di trattenere il 100% delle tasse pagate dai lombardi, avremmo risolto tutti i nostri problemi. Lei ha detto che arriverà a far trattenere ai lombardi il 75% di tasse. A che punto siamo rispetto a quella che è la promessa più importante che lei ha fatto in campagna elettorale? Sì, questo ovviamente è l'obiettivo di legislatura. Devo dire che da allora non è stato facile, perché il governo tende sempre a tagliare, ma siamo riusciti, per esempio, in sanità, applicando i costi standard, ad avere oltre 1 miliardo in più in questo anno e mezzo. Quindi ci stiamo faticosamente avvicinando al 75%. La soluzione vera, la soluzione politica, la soluzione definitiva è lo statuto speciale. Lo statuto speciale. Ma voglio dire, com'è il procedimento? Bisogna passare attraverso il Consiglio regionale, poi lo Stato non accetterà questa cosa, un po' come la Catalogna e il governo di Madrid. Ma c'è il livello delle procedure, cioè delle modifiche legislative, e poi c'è il livello politico, ovviamente, no? Chi critica questa mia proposta di fare il referendum consultivo dice che basta un emendamento a Roma per decidere lo statuto speciale. Non è vero, se presenti un emendamento su questo tema rimane nel cassetto per sempre. Se invece fai un referendum consultivo e il popolo lombardo, 10 milioni di lombardi, dicono sì allo statuto speciale, beh, insomma, il potere contrattuale aumenta e sarà un po' difficile per il Parlamento far finta di niente. A proposito di tasse, lei insieme anche al governatore Zaia in Veneto avete detto attenzione a minacciare la rivolta fiscale se si taglia ancora sulla sanità dal governo centrale, e Zaia dice: guardi che se io dico in Veneto non pagate le tasse, molti mi seguiranno, anche in Lombardia secondo lei, perché è un invito all'illegalità. No, non è un invito alla legalità, ci sono tanti modi per attuare questa tra virgolette minaccia, ma non è neanche una minaccia nell'illegalità, è una legittima difesa, perché è giusto ridurre la spesa sanitaria? Sì, io dico di sì, è giusto ridurre gli sprechi? Sì, ma non continuando a colpire le regioni virtuose come Lombardia e Veneto. Faccio un esempio: la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e ha 3.000 dipendenti con cui fa tutto, la Sicilia, che ha metà degli abitanti, ha 30.000 dipendenti, lì bisogna cominciare a tagliare, ma il governo non ha il coraggio di farlo. Ma cioè, cosa si potrebbe arrivare a vedere? Il governatore Maroni che dice ai lombardi non pagate le tasse? No, non è così. Ci sono dei meccanismi che stiamo studiando che consentono di realizzare questo obiettivo senza chiamare in causa la responsabilità di singoli cittadini. Per esempio, cioè, mi faccia capire. Beh, non mi faccia anticipare, no, non c'è più la sorpresa. È il mio lavoro, mi dico. Quindi è già in previsione, si farà, secondo lei, bisognerà arrivare in qualche modo a questo passo? La vede... Io spero di no, io spero che il governo davvero si convinca che bisogna tagliare gli sprechi. La Lombardia è l'unica regione che non ha mai avuto bisogno di ripianare i conti in sanità. Perché tagliare ancora qui? Se si applicasse il modello lombardo nella spesa pubblica, senta un po', abbiamo calcolato che la spesa pubblica italiana diminuirebbe di 20 miliardi circa. Questa è la strada da seguire. I 20 miliardi che cerca Renzi. Esatto. Il modello Lombardia. Vabbè, senta, invece non c'è pace, come ha visto, per l'Expo. C'è un'altra persona indagata, Antonio Acerbo, che è responsabile del procedimento per il Padiglione Italia. Lei ieri ha commentato, è una questione che riguarda Cantone e riguarda la società, non riguarda la Lombardia, però avrà un parere, perché il sindaco Pisapia ha detto deve fare un passo indietro Antonio Acerbo. Lei? Ma io ho sentito Renzi che in un caso analogo che ha un avviso di garanzia, l'amministratore delegato di Eni ha detto che deve rimanere lì, anzi che non si permette alla magistratura di fare queste cose. Qui invece il partito di Pisapia dice il contrario. Io sono un garantista e quindi è un'indagine, è un avviso di garanzia che è un atto dovuto. Vedremo, ce ne sono tanti di procedimenti aperti, nessuno chiuso. Primo. Secondo, Acerbo era ed è il vice di Beppe Sala, è il numero due. Da qualche mese c'è Cantone lì che controlla proprio queste cose, la corruzione, e vorrei sentire da loro che cosa è successo e che cosa hanno in mente di fare. A proposito di Expo, ho letto che il Louvre presterà 3 capolavori di Leonardo all'Expo, quindi opere ne arrivano, ma lei voleva i bronzi di Riace, è partita persa, partita chiusa? Li presta e il Museo della Magna Grecia no, e anche questo fa un po'. Cos'è, uno sgarbo, uno sgarbo alla Lega, secondo lei, anche alla regione della Lega? No. Mi auguro di no, che non siamo ridotti a questo livello. Però non arriveranno i bronzi, cioè partita chiusa. No, non lo so, c'è una commissione che ha istituito il ministro Franceschini, mantenendo fede all'impegno preso. Questa commissione entro metà ottobre dovrà dire se i bronzi sono trasportabili come noi crediamo. A quel punto lì io come Regione Lombardia ho già detto che sono disponibile a sostenere i costi del trasporto, ma ne avrebbero vantaggio tutti, compresa la Regione Calabria, perché avrebbe la possibilità, oltre che dimostrare queste sue bellezze al mondo, anche un vantaggio economico ne avrebbe alla fine. Vedremo. Intanto io, nel salutare, le faccio quest'ultima domanda, perché ieri è uscita la notizia del fatto che lei sia stato ascoltato a Bologna sulla vicenda della mancata protezione, della scorta mancata a Marco Biagi, una delle vicende più dolorose e tristi dell'Italia. Ci può confermare o meno se lei nel colloquio ha fatto alla prefettura ha confermato di aver informato allora l'ex ministro Scajola delle minacce nei confronti del giuslavorista? Io sono tornato, perché ero già stato convocato qualche mese fa, sono tornato ieri per un dettaglio che ho, con cui ho parlato con il procuratore. Però deve decidere lui, è solo lui che può dire, che può rivelare quello che ho detto come testimone. Io non posso farlo. Non posso farlo. La ringrazio intanto, buona giornata. Ovviamente, mi dica il pronostico, cioè ce la farà la Scozia? Perché lei ha detto che andrà a Edimburgo se vince, sì, ma ce la farà? I bookmakers dicono di no. 1x2. Vabbè, no, questa è democristiana come risposta. Esatto. 1x2. Esatto. Vabbè. È scaramantica. Okay. La ringrazio, buona giornata. Grazie, Roberto Maroni, governatore della Lombardia, della Lega. Dopo la pubblicità vi cercheremo di spiegare che cosa succede in Scozia, qual è il clima. Avremo ospite un giornalista inglese che vive da anni in Italia, che ha la penna urticante, che 2 giorni fa sul giornale è uno che non risparmia giudizi, dice: ma scozzesi, ma andatevene via, non vedo l'ora che vi separiate. Avremo ospite anche un professore, il professor Pietro Grilli di Cortona, che insegna scienza politica all'Università Roma 3, a cercare di capire che può succedere se dovessero davvero vincere i sì, anche con i riflessi nel resto d'Europa. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:38 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Cosa avete capito di quello che sta succedendo in Scozia? È una cosa che percepite come lontana da noi, oppure è una questione che può essere più vicina a noi di quanto voi possiate pensare? Oggi, per esempio, Repubblica fa un elenco di tutto quello che potrebbe essere il contagio scozzese temuto da Bruxelles, sempre che ovviamente vincano i sì. Saluto il professor Pietro Grilli di Cortona, che insegna scienza politica all'Università Roma 3. Buongiorno, professore, eccoci qua. Buongiorno a lei. Intanto, facciamo conto che vincano i sì. Forse ha sentito, comunque avevamo poco fa Roberto Maroni dire: beh, insomma, dopo la Scozia, tra poco ci sarà la Catalogna, anche se abbiamo spiegato che Madrid considera incostituzionale quel referendum. Poi Maroni punta al Veneto, il referendum consultivo, poi chissà. Potrebbe davvero cadere come un effetto domino tutta una serie di situazioni simili in Europa? Beh, sì, sicuramente. Cioè, una vittoria del sì avrebbe conseguenze imprevedibili e inimmaginabili in tutta Europa, cioè non è non sarebbe un evento che si ferma entro i confini della Gran Bretagna. Lei ha citato la Catalogna, potremmo citare le Fiandre, potremmo citare la Padania, i Paesi Baschi e perché no la Galizia, insomma ci sarebbero una serie di conseguenze, di effetti, un effetto domino notevole su tutta l'Europa. Però ci aiuti a capire, può avvenire perché tutti questi indipendentismi di varie forme, varia natura, inseriti in stati con costituzioni diverse, dicano è successo alla Scozia e quindi automaticamente ne abbiamo diritto anche noi, oppure questo automatismo non c'è, bisogna vedere stato per stato? Ma dunque, da un punto di vista costituzionale non esistono automatismi, questo è evidente. Però da un punto di vista, come dire, culturale, ideologico, gli automatismi esistono, cioè l'effetto emulazione sarebbe molto forte. D'altra parte da tempo ci sono delle spinte in certi paesi, non c'è bisogno di andare in Spagna, basti pensare anche all'Italia, ogni tanto da 20 anni a questa parte si parla di secessione. Naturalmente, grande rispetto per queste identità localiste, poi gli scozzesi hanno una tradizione, una storia, lo sappiamo, però il mondo ne soffrirebbe notevolmente. L'Europa non è neanche un problema di Unione Europea, è un problema proprio di sovranità degli Stati, rischieremmo di andare verso un'Europa spezzatina, un'Europa destino. Certo, è quello che ho detto io prima, Maroni, cioè rischiamo di trovarci in una situazione contro quelle battaglie per cui ci si è spesi, no, per anni, la questione dell'Europa unita, a ritornare. Però lei come li giudica questi nuovi indipendentismi? Ovviamente ognuno ha la sua peculiarità, però effettivamente negli ultimi anni sono molto cresciuti queste spinte anti-europee e anti-unitarie, come mai? Ma guardi, sono un po' delle reazioni all'Europa, alla sovranità europea, Bruxelles è lontana, delle reazioni alla globalizzazione, sempre più su certe questioni sono altri che decidono per noi, quindi sono delle reazioni che affondano naturalmente le loro radici nella storia di ogni singolo Stato, di ogni singola regione. Però i nazionalismi e i regionalismi, i populismi nazionalistici, diciamo così, hanno la caratteristica di offrire delle soluzioni semplicistiche a problemi che purtroppo non possono essere risolti così. E questo certamente. Tra l'altro, dalle agenzie sono ufficialmente cominciate le operazioni di voto, perché l'apertura dei seggi era alle 7, quindi le 8 ore italiane, quindi da 42 minuti, si chiuderanno alle 22 questa sera, le 23. In Italia, e i risultati ci saranno nella notte, nel senso che domani mattina poi il capo degli indipendentisti Alex Salmond potrà dire o no se hanno vinto i sì o se hanno vinto i no per quel che riguarda la Scozia. Fatevi sentire qualche ascoltatore. Paolo da Ravenna ci chiama. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Ecco, io volevo solo aggiungere una cosa interessante, quella che questi nazionalismi vengono quando ci sono poi tensioni sia politiche che sociali e anche economiche, come in questo caso qua, per cui questa è una problematica. Volevo dire aggiungere una cosa anche al senatore Maroni, che secondo me, tra l'altro come bravo musicista e sassofonista, comunque si sa che da solo col sax non vai da nessuna parte, devi far parte di un'orchestra, per cui secondo me oltre a stare attento alla custodia dei sax, che non gli portino via i soldi quelli di casa propria, era meglio magari che parlasse più di unione che di divisione. Le cose si risolvono insieme, non si risolvono dividendosi. Ricapiteremo a Maroni, che comunque c'era fino alle 8:30 da sassofonista, c'è bisogno di suonare in un gruppo. Ringrazio Paolo da Ravenna, andrei a Napoli da Francesco. Buongiorno Francesco. Pronto, buongiorno. Sì, eccoci qua. Siamo da Napoli. Volevo intervenire perché mi auguro che il movimento indipendentista, che adesso speriamo abbia un buon esito in Scozia, ben presto lo abbia anche in Italia e particolarmente a sud Italia. Perché c'è una condizione che è anche maggiore, più grave di quella della Scozia, Lo Stato ormai ha fallito, Sud Italia si vede che non ha volontà di combattere la criminalità organizzata, la disoccupazione. Noi viviamo una condizione di colonia molto peggiore di quella della Scozia. Sì. Quindi mi auguro e invito tutti i meridionali orgogliosi che stanno riscoprendo a fare un movimento indipendentista. No, già ce ne sono molti. Sì, certo, ce ne sono. Tutti i meridionali a seguire movimenti come l'Unione Mediterranea, come l'insorgenza civile, come il Partito del Sud, a cercare di unirsi per... Cioè, ma per fare cosa? Nel senso, lei cosa ambirebbe? Avere la campagna indipendente? Ci vuole una nuova classe dirigente politica. Questo lo diciamo da 20 anni. La stiamo formando e la stiamo cercando di ma lei fa parte di uno di questi movimenti? Certamente facevo parte di questo movimento. L'avevo sospettato. Vabbè, ma è una libertà, non è genere. No, ma certo, mica era un'accusa la mia, era una domanda. E volevo dire una cosa al senatore Malone, ecco, quello che loro non sono riusciti a fare in tanti anni, più di 20 anni, stando al governo, cioè quello della secessione, lo faremo noi, perché noi e loro non hanno interesse, sanno benissimo che dal punto di vista economico la secessione non conviene, perché i prodotti delle aziende del nord hanno un mercato interno chiuso, protetto, che è quello là del sud, e quindi hanno avuto la possibilità e non l'hanno mai fatta. Lo faremo noi ben presto, quando come analisi economica, le vere aziende che fanno impresa, insomma, soprattutto esportano, non è che sulle 24 ore sapete bene che praticamente l'export delle aziende del nord è molto ridotto rispetto a quello del mercato interno. Su 100 euro di prodotti comprati al sud, 96 euro vengono portate al nord, vengono prodotti acquistati al nord. Sì. Quindi c'è una ricaduta economica. A parte che se ci fosse anche l'indipendenza, si potrebbe esportare comunque anche nel nuovo stato di Campania, per dire. Non è che... Sì, ma ci sarebbero delle leggi nuove. E tutte delle dinamiche economiche e commerciali che... Diverse. Comunque è la situazione. Vabbè, ma insomma, questa è la sua ambizione. Invita i popoli del sud, anche qui variegati, a unirsi per fare una vera lotta indipendentista, ma del sud, distaccarsi da Roma. Eccoci qua alle 8:49 minuti, con noi c'è il professor Pietro Grilli di Cortona, che ricorda insegna scienza politica all'Università Roma 3. Professore, ha sentito i pareri degli ascoltatori, tra poco ne sentiremo anche altri. Certo, c'è da dire, dovessero vincere i sì, che succede per esempio sulla questione dell'Unione? Perché gli indipendentisti scozzesi vogliono mantenere il seggio all'Unione, vogliono non certo entrare nell'euro, vogliono mantenere la sterlina, cioè ci sono tutta una serie di complicazioni non indifferenti. Ma dunque, se dovessero vincere gli indipendentisti, otterrebbero una soddisfazione da un punto di vista politico-culturale di cui si pentirebbero, credo amaramente, nei prossimi anni, perché il nuovo Stato della Scozia intanto sarebbe fuori dall'Europa. Sì. Molto difficilmente. Cioè automaticamente, perché loro, essendo un nuovo Stato... Rappresentano un'entità sovrana diversa, quindi bisogna ricominciare la trafila. Certo. E non è detto che riuscirebbero a entrare, perché chiaramente una entità scozzese in Europa solleverebbe molti problemi da parte dello Stato spagnolo e da parte di altri, proprio per paura di quell'emulazione di cui dicevamo prima. Questo è un primo problema. Poi ci sono i problemi, la moneta. Dalle dichiarazioni che si sono lette in questi mesi sembra chiaro che Londra non abbia nessuna intenzione di condividere la sterlina con il nuovo Stato scozzese. La difesa, la sanità... Insomma, tutta una serie di problematiche. Sarebbe una serie di problemi enormi. Tra l'altro, uno dei punti di cui si fanno forza gli scozzesi è il famoso petrolio del Mare del Nord. Sì. Ma da quello che si legge da più parti, sembra che questo petrolio cominci a esaurirsi. Quindi, non so, poi alla fine mi sembrerebbe una... una delle fonti di ricchezza. Rimarranno i salmoni, prendetela come... Scozia è un paese meraviglioso. Certo, assolutamente. Allora, intanto, vogliamo andare in Scozia, idealmente. Io voglio salutare quel matto di David Parenzo, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Sei a Edimburgo, ti abbiamo svegliato ovviamente. Sono a Edimburgo, mi hai mezzo svegliato per la verità, perché qui sono le 7:50. Sì, ma le urne sono aperte, le urne sono aperte, caro David, quindi devi... Le urne sono aperte, ma io ho lavorato fino a ieri, fino alle 3 del mattino, e adesso devo uscire tra poco, sì, farmi un giro nelle urne, cercare di vedere... il signor Salmond, che non è un salmone, no, no, ma è colui che guida la rivolta, che guida la rivolta. E che si dice? Perché sai che i bookmakers ci sbagliano poco lì e danno in vantaggio i no, anche se di poco. Guarda, anche se di poco, effettivamente è così, i no sono in vantaggio. Però la questione interessante non è questa, perché qualunque cosa accada, anche se la vittoria del no sembra ormai quasi scontata, ma le cose comunque rimangono aperte, perché anche il no, certo il sì avrebbe, come dire, un effetto a catena anche in altri paesi, poi sarebbe un fatto epocale e quant'altro, però anche il no, come dire, apre tutta una partita che è quella delle promesse di Londra o di Westminster, come dicono qui. Beh, chiaro, hanno fatto delle concessioni mica male David Cameron negli ultimi giorni, come dire, state la con noi. La Devolution Max la chiamano, cioè proprio una sorta di indipendenza ultra. Loro, lo avete forse già ricordato, già battono moneta perché hanno la sterlina scozzese, già hanno un Parlamento che però è assimilabile, come dire, al comune, sì, al comune di Bolzano, all'autonomia che c'è al comune di Bolzano, e quindi hanno, diciamo, questa volontà che è quella davvero di staccarsi da Londra. Io, per le persone che ho sentito, perché si sente più il comitato del sì che non quello del no. Beh, come, cioè, come il comitato del sì, come spesso accade anche in Italia, abbiamo visto delle nostre referendum, è davvero molto molto molto forte, rumoroso, visibile. La cosa che mi ha colpito però, io sono stato sia, ora sono a Edimburgo, ma ieri sono stato a Glasgow, è la campagna capillare che ci sono. Se tu giri, guardi intorno, vedi alle finestre, quasi a tutte le finestre, le persone che hanno attaccato dei manifesti con sopra scritto sì o no. Cioè davvero è una questione di popolo intero, c'è tutta la popolazione coinvolta. A me è come i colori di questa città, di girare, alzare la testa e guardare e vedere sì o no. Beh, ma è chiaramente la battaglia che si combatte casa per casa, strada per strada, cioè ogni anno. Beh, ma è sicuramente un giorno storico, voglio dire, dopo 307 anni comunque si decide se rimanere con Londra. No, ma ti volevo dire, non è il gazebo della Padania lì. Va bene. No, poi per carità, so che avremo ospite, abbiamo avuto ospite prima Roberto Maroni, quindi meno male che non ti sente. Tra l'altro io voglio dire questo, mi faceva notare oggi Miriam Lucchetti, si vota di giovedì perché lì si considera il weekend, ti puoi fare i fatti tuoi e quindi si vota di giovedì, così insomma come momento, invece di andare a lavorare fai il tuo dovere civico di andare a votare. Esatto, mi sembra... è una società, è una superiore, questa è l'Inghilterra, la Scozia sono un paese ma in tutto, nel diritto, la dinamica l'avete raccontato, l'avete spiegato sicuramente, ma la dinamica di come nasce questo referendum dimostra che gli inglesi scozzesi sono una società superiore. Eccolo lì, Parenza è arrivato con il suo giudizio, cari italiani, potete, è il tuo giudizio. Sì, su questo no. No, ma è il mio, qualsiasi professore di diritto che tu hai comparato te lo dirà, non c'è paragone. Ci sarà un motivo se qui nella storia hanno tagliato una testa sola e i francesi invece ne hanno fatte rotolare a centinaia. Cioè qui le rivoluzioni vengono fatte soft, sono rivoluzioni liberali veramente, bellissima la statua del filosofo Smith e di Hume, che non è stata toccata neanche con un volantino, non hanno attaccato neanche un yes o no, perché ci hanno rispetto delle cose. Nonostante le battaglie. Ah, certo, no, non vogliamo neanche saperlo. Io ringrazio Davide Parenzo, che ormai sei sveglio e quindi puoi andare in giro per le urne. Ringrazio anche il professor Pietro Grilli di Cortona. Staremo a vedere ovviamente come va a finire questo appuntamento. Domenico da Torino ha 10 secondi per dire la sua. Domenico, buongiorno. Buongiorno a lei, senta, molto rapidamente. Sì. Direi che la Scozia ha una storia assolutamente diversa rispetto all'Inghilterra, per esempio al Veneto e rispetto all'Inghilterra. Direi che c'è stato un conflitto storicamente aperto tra la Scozia e l'Inghilterra, e quindi mi chiedo perché dobbiamo sempre trasformare sì. fatti direi locali infatti diversi. No, Domenico, abbiamo capito, le avevo dato 10 secondi, ha sforato molto, ma abbiamo capito il suo intervento. A domani 6:30.